Antonio Fiorentino della redazione per un'altra città. Buonasera. Sì, ciao, buonasera a tutti. Allora, è comparso qualche settimana fa un articolo sulla rivista Appello per il riuso del patrimonio sanitario pubblico di Pistoia, abbandonato e in vendita. Si parla in particolare della costruzione di quello che è il nuovo, costruzione molto discussa del nuovo ospedale e la svendita, così viene detto, di quello che invece era il complesso ospedaliero. Quindi si parla dell'ex ospedale psichiatrico, della Villa Sbertoli e il padiglione dell'ex ospedale del Ceppo, situati all'incirca in centro storico. Raccontaci un po' la questione. Sì, certo. A Pistoia, come sapete, è stato costruito il questo da qualche anno, e in un'area che forse non è la più salutare, la più salubre da questo punto di vista, perché l'ospedale è stato costruito dell'autostrada, del cartello autostradale, della superstrada della circonvallazione di Pistoia. Quindi dal punto di vista ambientale piuttosto precaria, sono stati ridotti i posti letto, e per ripianare le spese necessarie per questa nuova costruzione è stato messo in vendita l'ex complesso ospedaliero e psichiatrico di Pistoia, cioè le Ville Sbertoli, in una posizione stupenda, bellissima. Si tratta di 10 ettari di terreno pedecollinare con dei padiglioni storici di grande valore paesaggistico, architettonico, storico e poi anche funzionale, sanitario. Vecchia sede dell'ospedale di Pistoia, che era nel centro della città, l'ex ospedale del Beppo. Intorno a queste due strutture sanitarie è stato creato un accordo di programma, il primo nel 2015, l'altro nel 2019. L'accordo del 2015 ha coinvolto l'amministrazione di centrosinistra, allora sindaco Bertinelli. L'accordo del 2019 coinvolge invece l'amministrazione dell'attuale sindaco Alessandro Tomasi. Cosa accade? Che nonostante un percorso partecipativo che avesse individuato una serie di finalità sociali per quanto riguarda le Ville Sbertoli, l'ex manicomio di Pistoia, si prevede la vendita di questo straordinario complesso architettonico e poi sanitario, la vendita e la possibilità di trasformarlo anche in struttura turistico-ricettiva. Dall'altro lato, l'ex ospedale del Ceppo ha già subito delle demolizioni di alcuni padiglioni ospedalieri, alcuni padiglioni sanitari all'interno dell'area. Ne sono rimasti alcuni. Allora, noi chiediamo questo: che il patrimonio sanitario non sia venduto, cioè è pubblico, è di proprietà dell'ASL e deve restare patrimonio collettivo. Che si fermino le demolizioni all'interno dell'ex ospedale del Ceppo e che ciò che risulta ora sia messo a disposizione della collettività e della città, tanti vecchi e nuovi di Pistoia, sia per quanto riguarda la disponibilità di strutture territoriali sanitarie di base, ma anche per l'accoglienza residenziale pubblica. È un patrimonio che non può essere sprecato, è un patrimonio che deve essere recuperato, soprattutto ora, abbiamo visto durante l'emergenza Covid, come si può dire, che la straordinaria importanza della presenza di strutture reali di base appunto per affrontare un'emergenza, per prevenirla e per assistere al di fuori delle strutture ospedaliere gli stessi pazienti. Ecco, parlavi appunto di un percorso partecipativo, questo risale al 2009, da chi era stato promosso? Ma senti, il percorso partecipativo era stato promosso da una serie di associazioni presenti molto attive sul territorio, ma addirittura c'erano state anche delle manifestazioni di tipo artistico. Vorrei ricordare lo Sbertoliano, in cui si prevedeva il riuso per usi sociali dei padiglioni delle Ville Sbertoli. Cosa che è stata disattesa completamente, perché non si parlava di strutture turistico-ricettive, ma funzioni per l'accoglienza, per la presenza di associazionismo, per la presenza di case di cura per anziani, giovani coppie, eccetera, date in gestione al terzo settore, alla forme di cooperazione e di auto-organizzazione di base. Queste aspettative sono andate completamente disattese. Beh, questo purtroppo mi sembra un percorso abbastanza in linea con tanti percorsi partecipativi, forse questa modalità andrebbe un po' rivista. Molto spesso le autorità, poi le amministrazioni, si riservano il diritto di poterle accettare oppure no. Ma appunto parlavi principalmente di strutture sociosanitarie, ce n'è si è evidenziato dopo questo periodo la estrema necessità di una rivalutazione e rivisitazione totale del settore sanitario e sociosanitario. Sì, certo, è la stessa Corte dei Conti nel rapporto pubblicato un paio di giorni fa ad analizzare la spesa sanitaria e a denunciare il disinvestimento che c'è stato nel complesso per quanto riguarda le strutture sanitarie, e in particolare evidenziato come una delle cause della diffusione del Covid, l'assenza di strutture territoriali di base che facessero da un lato da filtro rispetto alle e alle richieste nei confronti degli ospedali che si sono trovati sovraccaricati. E la stessa Corte dei Conti suggerisce di investire in queste strutture territoriali, nella medicina territoriale di base per l'assistenza, la prevenzione. E davvero io penso che non si possa sprecare questo patrimonio pubblico, non possa essere venduto. Sia le ville Sbertoli che i milioni che, come possiamo dire, che sopravviveranno, speriamo che sopravvivano, ancora non sono spariti, debbano essere riutilizzati. Anche perché poi quella zona del centro storico di Pistoia, tutta relativa all'ex ospedale del Ceppo, è una zona che ormai è completamente abbandonata anche da un punto di vista delle strutture commerciali, della frequentazione, eccetera. Quindi va necessariamente rivitalizzata da un punto di vista sia della presenza dei servizi sanitari, ma anche della presenza di residenze pubbliche. Poi vorrei sottolineare un altro aspetto, che il recupero funzionale dell'ex Ceppo e delle ville Sbertoli può rappresentare un po' il cuore di una rinascita, come possiamo dire, ecologica dell'intera città, perché le due strutture possono essere messe in collegamento con un percorso con un corridoio ciclo pedonale, e tra l'altro questo corridoio, quest'asse che si verrebbe a creare tra queste due strutture, può consentire la rivitalizzazione, per esempio, di tutto il circuito delle mura urbane, il collegamento con l'ombrone che attraversa il territorio comunale, quindi la creazione di un fluviale, ossia può innestare, avendo, come si può dire, avendo la volontà politica di questo tipo di progetto, può innestare innescare un ripensamento di tipo ecologico dell'intera città. Ecco, poi un'altra cosa volevo chiederti, un po' facendo il paragone con probabilmente improprio con una città come Firenze, sono città, Firenze e Pistoia, con dimensioni estremamente diverse e anche probabilmente con un uso, diciamo con una prospettiva, a meno che gli è stata data negli ultimi anni, un po' diverse, però è comunque un tratto in comune quello della decentralizzazione dei servizi. Perché è stata scelta una decentralizzazione di un sistema ospedaliero quando nel centro di una piccola città di fatto vi era già un presidio, anche più di uno. Ma senti, qui si sconta, io dico, un po' di confusione sulle scelte urbanistiche delle città, in particolare poi Firenze, perché c'è stato uno svuotamento funzionale di tutto il centro storico. Andate via l'università, il tribunale, e ci siamo ritrovati un centro storico messo a disposizione della rendita immobiliare, messo a disposizione della speculazione immobiliare, ed ecco il disastro che poi ne è venuto fuori ora. Ora è un centro fantasma, perché non ci sono i turisti, ma non ci sono più gli abitanti, cioè il centro è stato completamente svuotato, sono rimasti i gusci, sono rimaste le murature, sono rimasti gli scheletri, ma la vita del centro storico è stata completamente allontanata. Anche su questo, certo, presidi sanitari all'interno della città sono importanti, sono vitali, rappresentano uno snodo, un punto di incontro di relazioni, di interventi di prevenzione, di assistenza, di cura, cioè proprio le relazioni sociali che poi animano la città. Vorrei completare un attimo alcune considerazioni su Pistoia e ricordare che abbiamo lanciato un appello, una petizione che si può firmare sulla piattaforma change.org, un appello in cui descriviamo la situazione, proponiamo il recupero funzionale, quindi delle ville Sbertoli, dell'ex manicomio, con il recupero di ciò che resta dei padiglioni del vecchio ospedale e l'ex ceppo nel centro storico. Siamo arrivati già a più di 500 firme, proseguiamo con questo percorso e presenteremo le firme ai responsabili, che sono il presidente della regione Rossi, il presidente dell'ASL Toscana Centro Morello e il sindaco del comune di Pistoia. Io spero che vorranno aprire un'interlocuzione aperta ai cittadini, in maniera tale da poter mettere in atto un recupero che noi riteniamo decisamente importante, fondamentale. Bene, quindi rimandiamo sicuramente a change.org, l'indirizzo ci si può arrivare anche attraverso appunto l'articolo di su Per un'altra città. Già fra l'altro diverse adesioni vi sono elencate, fra le quali balza un po' agli occhi anche quella del San Salvi Chi Può, del comitato di San Salvi Chi Può, una situazione direi abbastanza simile a quella che ci hai appena raccontato. Abbiamo apprezzato tantissimo l'adesione del comitato San Salvi Chi Può, perché è una situazione davvero simile, ma è quello che sta accadendo anche un po' in tutta Italia. Le vecchie strutture, i vecchi manicomi sono stati liberati e quindi dalla loro funzione oppressiva, di segregazione, però in molti casi sono stati abbandonati al degrado in attesa dell'investitore che avrebbe dovuto salvare la struttura, e gli investitori non salvano, investono per speculare e fare i loro interessi. Ma invece in tanti altri casi l'ex manicomio è stato utilizzato in maniera positiva, per esempio a Trieste, dove c'è sia la sede dell'ASL, c'è la sede di alcune scuole superiori, residenze pubbliche, un teatro, ed è aperto alla città, non ci sono recinzioni, si può entrare in qualsiasi momento, per cui ci sono degli esempi di recupero che andrebbe portato a termine. Non solo, ma abbiamo avuto anche un incontro con alcuni gruppi, comitati, con l'associazione Idra, che si sta occupando del recupero dell'ex sanatorio Banti di Sesto Fiorentino. Anche qui siamo di fronte ad una carenza e una cattiva volontà della politica, cioè dell'abbandono e pensare il recupero in funzione speculativa. Questo non è possibile, ormai lo abbiamo sostenuto da tanti anni, ma l'emergenza del Covid-19 lo sta dimostrando. Abbiamo bisogno di strutture territoriali, di ampi spazi per poter affrontare queste nuove situazioni sanitarie, e non saranno, il Covid non sarà l'ultima, io spero che lo sia decisamente, però dobbiamo affrontare questa cosa qui. La nostra proposta è che è davvero Pistoia, tornando al nostro discorso iniziale su Pistoia, possa diventare non solo la città dei vivai, anche se i vivai sono discutibili da un punto di vista ambientale perché c'è un uso di pesticidi, sappiamo che è problematica la questione, ma possa diventare la città dei parchi. L'ex ceppo trasformato in parco urbano, guardate a Pistoia c'è anche una grossissima ferita territoriale che è l'area ex Breda, dove è da anni è aperto un cantiere che non è stato portato a termine. Allora anche lì il recupero dell'asse ex ceppo Ville Sbertoli potrebbe comportare, abbiamo detto, la rivitalizzazione del circuito delle mura, delle aree verdi, e anche il recupero di quest'area che è completamente abbandonata, in parte recuperata, che può diventare un nuovo parco a disposizione della città e dei cittadini, e quindi ecco che può rinascere la città, una città dei parchi, a disposizione della buona vita, del buonessere, della giustizia anche sociale ed ecologica. Bene, noi ci auguriamo che questo succeda, ancora rimandiamo all'appello per una Pistoia più vivibile, ma mi viene da dire anche per una piana della Fiorentina, che si estende alla fine fino a Pistoia, che vede veramente tantissimi conflitti. Quindi ancora grazie Antonio Fiorentino e a prestissimo. D'accordo, grazie a voi per quello che fate e salutoni a tutti. Ciao, grazie Antonio.